Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. La cronaca della giornata economico-finanziaria oggi vede da un lato alcune dichiarazioni rese dal ministro dell'economia Tremonti dopo il vertice Ecofin, che riguardano le previsioni economiche diffuse ieri da Bruxelles, ne abbiamo ampiamente parlato, ma anche il prossimo G8 e il piano dei cosiddetti G20. Ma non solo, ci sono anche novità oggi su altri fronti e mi riferisco da un lato all'andamento di quello che sembra essere stato più che l'andamento il risultato degli stress test americani sulle banche, sulle 19 banche d'affari principali del paese. Dall'altro la borsa oggi in maniera non preoccupante, non pesante, vede prevalere i cosiddetti realizzi, ossia le vendite dopo che i titoli sono cresciuti. S&P MIB meno 0,5, MIB del meno 0,6. Va detto che ancora una volta Milano fa meglio della media europea, tranne che per Londra. Londra, al dire il vero, sta recuperando anche la giornata in cui era chiusa per le cosiddette bank holidays, per cui fa storia a sé oggi, più 2%, ma Francoforte perde l'1%, Parigi meno 0,6, l'America perde lo 0,3% sul Dow Jones e l'1,34% sul Nasdaq. Parleremo di crisi economica, ma soprattutto parleremo da un lato della ricostruzione in Abruzzo. Oggi infatti un incontro, una visita importante del presidente di Confindustria Marcio Gaglia in Abruzzo, sarà anche l'occasione per capire che cosa e quanto manchi ancora a far ripartire l'aspetto produttivo della regione, che sicuramente è secondario, è stato secondario l'aspetto umanitario, l'aspetto delle vittime, ma è un aspetto fondamentale perché, come più volte abbiamo ripetuto, a chi già ha perso la casa manca solo che perda il lavoro. E su questo fronte si attende poi lo stanziamento degli 8 miliardi tramite decreto legge complessivi annunciati dal governo, mentre altre iniziative, soprattutto quelle di carattere fiscale, sono già in vigore. Parleremo poi del rapporto Ecomafi con un taglio un po' particolare. Molti di voi ci hanno scritto in queste settimane, in questi mesi, se di fronte a una crisi che è stata ed è ancora crisi di liquidità, crisi di denaro, credit crunch, non ne potesse trarre vantaggio la mafia o le mafie, il mondo della criminalità organizzata, che quanto a liquidità ne ha tanta ed è disposto anche, pur di ripulirla e riciclarla, a investirla con bassi tassi di interesse, diciamo anche a perderci. Sarà l'occasione per ragionare su come la criminalità si sia mossa in questi mesi di crisi finanziaria ed economica, poi come sempre anche gli aggiornamenti dei mercati finanziari. I titoli, rapidamente, Luxotti che è il migliore tra quelli a maggiore capitalizzazione, guadagna il 3,9, Campari più 3,5 come il Banco Popolare, il 3,3 lo guadagna Mondadori, il 3% la Popolare di Milano, il 2,2 Autogrill, il 2,1 Parmalat, Unicredit più 2, Buzzi Unicem più 1,7, Snam più 1%, Ubibanca più 0,5, Mediaset più 0,3. Sul fronte opposto, Mediobanca perde il 4,2, Pirelli il 3,4, Tenaris il 2,4, Eni perde il 2, Italcementi l'1,6. Sono tutti titoli, soprattutto Pirelli, Eni, Italcementi, che bene si erano mossi in queste ultime sedute. Prismian meno 1,6 come Telecom, 1,5% lo perde Intesa, ma anche Enel e Atlantia. Ancora ultime cifre prima di passare alle notizie in breve. Il petrolio è in rafforzamento già ieri, anche oggi è aperto a $54,6 al barile. Come l'intensità della crisi sembra scemare, sembra ridursi, ripartono anche le spinte sul petrolio. Per fortuna l'Euribor, il tasso interbancario a tre mesi, ha toccato un nuovo minimo storico all'1,34%. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve della giornata. UBS, un gigante svizzero duramente colpito dalla crisi finanziaria, ha visto infatti crollare la sua capitalizzazione da 116 a 41 miliardi di euro e ha accumulato svalutazioni per 40 miliardi di dollari. Ebbene, UBS oggi ha diffuso i conti dei primi tre mesi dell'anno, sono ancora in perdita ma nettamente meglio dell'ultimo trimestre 2008. Allora infatti UBS perse, registrò un rosso nel trimestre di 9 miliardi e mezzo di euro e adesso siamo a 1 miliardo e 3 di rosso. Dicevamo degli stress test americani, già oggi la Federal Reserve potrebbe comunicare alle banche in forma privata, poi usciranno giovedì, i risultati dei test fatti per capire quanto possono reggere le banche, le principali banche d'affari americane in caso di peggioramento dello scenario economico finanziario. Il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, nel corso di un'audizione al Congresso terminata poco fa, ha detto di essere comunque soddisfatto dei dati emersi dagli stress test e ha anche aggiunto che alcune però ricadute della crisi finanziaria potrebbero minacciare la ripresa dell'economia americana, che secondo la Federal Reserve dovrebbe riaffacciarsi quest'anno, probabilmente verso la seconda, la fine del 2009. Però una nota positiva da Bernanke arriva anche sul mercato immobiliare americano. Infatti il numero uno della Federal Reserve ha detto: anche il mercato immobiliare americano sta mostrando segnali e segni di stabilizzazione. Vicenda Fiat Opel. Allora, mentre in Germania oggi è uscito il dato sulle immatricolazioni e a differenza di quello di ieri dell'Italia è stato un botto, più 19,4% ad aprire le immatricolazioni in auto in Germania grazie agli incentivi. Tra l'altro la Germania è in controtendenza con la maggior parte dei paesi europei. La cosa che a noi fa ancora più piacere è il dato della Fiat. La Fiat è diventata ad aprile il primo importatore in Germania e più 142% ha registrato in Germania ad aprile, con 25.667 auto del gruppo Fiat immatricolate. Ed è il maggior rialzo fra tutti i costruttori presenti nel mercato tedesco e la quota arriva al 6,8%, più che raddoppiata rispetto a un anno prima, che era al 3,3%, e per cui la Fiat è il numero uno tra i marchi esteri, diciamo, quanto auto in Germania. Chissà se anche questo servirà, diciamo, a convincere il governo tedesco. Perché? Perché oggi, mentre Super Marchionne, come l'abbiamo battezzato, è arrivato dalla Germania a Torino e poi ieri sera, e poi è ripartito dopo una breve pausa per gli Stati Uniti, l'ennesimo viaggio oltreoceano, New York, Washington e Detroit, le tappe previste, colloqui con il tesoro americano e con i managers della Chrysler dopo l'operazione che ha visto la Fiat entrare nel capitale di Chrysler. Nel frattempo Marchionne ha anche precisato, lo ha fatto in un'intervista al tabloid tedesco Bild, che la Fiat sarà in grado di pagare le garanzie pubbliche chieste tra i 5 e 7 miliardi al governo tedesco entro 3 anni nel caso di un'acquisizione della Opel. Ha anche confermato che la Fiat manterrebbe tutti e 4 gli impianti produttivi della Opel in Germania. Il governo tedesco intanto ha detto di valutare i vari piani presentati per una possibile acquisizione della Opel senza alcuna preclusione, e questo dopo lo scivolone, la gaffe del commissario europeo Verheugen la settimana scorsa. Secondo il Financial Times ci sono altri gruppi interessati, oltre a Fiat e Magna International c'è anche il Fondo Sovrano di Abu Dhabi, di Singapore e 3 gruppi di private equity. Si tratterebbe però in quel caso di iniezione di capitale, non di progetti industriali. E poi sempre sul Financial Times, ma sulla famosa, celebre Lex Column, c'è un titolo molto enfatico: Yes We El Can, giocando sul Yes We Can di Barack Obama, la campagna elettorale di Barack Obama, in cui si fa notare come se la Fiat non dovesse riuscire ad aggiudicarsi la Opel, quindi General Motors Europe, potrebbe ricorrere al già vociferato piano B, ossia un'alleanza con il gruppo francese Peugeot Citroën, PSA, la BMW della famiglia Quand. Quindi, in sostanza, secondo il Financial Times, vi sarebbe già pronto o comunque ipotizzato un piano B nel caso di fallimento di operazione con Opel. E un in bocca al lupo a Sergio Marchionne, arrivato da Emma Marcegaglia, ne parleremo anche più avanti nel corso del programma. Adesso invece ci spostiamo sul vertice Ecofin, ossia ministri economico-finanziari riuniti a Bruxelles. No comment di Giulio Tremonti sulla trattativa in corso tra Fiat e Opel, mentre Tremonti è uscito, ha commentato alcune delle stime economiche diffuse ieri dalla Commissione Europea. Lo ricorderete, ne abbiamo parlato ampiamente: meno 4,4% l'Italia, meno 4% in generale l'area euro, più 0,1% l'anno prossimo, leggermente peggiore delle stime del governo, con una disoccupazione che il prossimo anno dovrebbe toccare quasi il 10% e il debito salire il prossimo anno al 116% del PIL e al 113% quest'anno, un deficit al 4,5% del PIL quest'anno e al 4,8% l'anno prossimo. Sentiamo su questo Tremonti. A occhio, i numeri che abbiamo messo nell'ultima relazione sono in linea con i numeri della Commissione, anzi in certi casi sono più rigorosi. Più o meno ci ritroviamo col fondo, con la Commissione, con l'OCSE, più o meno stiamo nella media. E nella media abbiamo numeri relativamente migliori di altri paesi. La velocità di crescita del deficit e del debito è minore rispetto alla media europea. Mi rendo conto che rompe un po' un software che dice l'Italia peggio, peggio. Per la prima volta l'Italia fa meglio, sia come deficit che come debito. Sulla crescita sulla crisi noi siamo messi relativamente meglio degli altri, e lo stesso più o meno si vede anche sull'occupazione. Gli altri paesi hanno numeri di economia reale simili o peggiori dei nostri, pur contenendo interventi più pesanti dei nostri. Questo vuol dire che la profondità della crisi è maggiore altrove che da noi. E se sono uguali come economia reale, incorporando interventi di sostegno più forti, vuol dire che la crisi era più forte come intensità, come profondità. Questo non è privo di significato. Noi siamo riusciti a tenere, per scelta e per vincolo di bilancio, a tenere una gamma di interventi di sostegno all'economia minore che gli altri, e abbiamo un risultato uguale agli altri. Quindi vuol dire che la crisi da altre parti è più forte che da noi. E perché? Perché stanno pagando adesso il costo di una crescita à la carte, come è stata negli ultimi anni. Troppi paesi, troppe volte indicati come modello, in realtà avevano una crescita à la carte, cioè basata sulla carta, sul debito. Beh, al di là di qualunque giudizio, bellissima l'espressione della crescita alla carte, perché voglio dire, ricorda sia più che il menù del ristorante, ricorda la carta su carta, quindi titoli di carta che poi sono rivelati di carta straccia, perché appunto hanno perso ogni valore. Il riferimento, immagino di poter interpretare correttamente Tremonti, a paesi come l'Irlanda, ma anche alla Spagna, la famosa polemica sul sorpasso spagnolo, e non solo, la stessa Gran Bretagna non sta passando un bel periodo. Sulla situazione delle nostre finanze pubbliche è intervenuto comunque, sempre al vertice Ecofin, anche il direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli. Ascoltiamo questo passaggio. Dalla discussione è emerso, se guardiamo all'area dell'euro, su 16 paesi, 13 paesi presentano condizioni di deficit sia quest'anno nel 2009 sia nel 2010. Quindi l'applicazione del patto di stabilità e crescita deve tenere in considerazione in qualche modo anche questo. Ci sono stati ovviamente discussioni, suggerimenti perché non in qualche modo depurare dagli effetti della crisi per vedere ciò che è veramente strutturale. Oppure una cosa interessante, se guardiamo agli aspetti strutturali, cioè al deficit di bilancio corretto per il ciclo, se vi guardate la tavola dell'Eurogruppo, l'Italia è uno dei pochissimi di quei 13, anzi forse l'unico di quei 13, in cui, se facciamo l'aggiustamento per il ciclo, risulta in entrambi gli anni sotto la soglia del 3%. Così. così il direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli. E questa era l'ultima notizia, le nostre notizie in breve, come vi ha anticipato la nostra base. Parleremo poi del rapporto con Confcommercio nella seconda ora del programma, quando vedremo come i consumi si sia arrestata la caduta dei consumi, ma resta l'incertezza comunque nei consumi degli italiani. Adesso affrontiamo un tema praticamente ad un mese dal terremoto che ha colpito l'Abruzzo, lo ricordate tutti, alle 3:32 minuti del 6 aprile, 298 persone, il calcolo finale, 60 dei morti purtroppo e 65.000 sfollati. Oggi i vertici della Confindustria, a partire dal presidente Marcegaglia, si sono recati in Abruzzo, all'Aquila, ma non solo, a vedere anche lo stato dei lavori e giudicare anche gli interventi necessari, quelli soprattutto urgenti. Che cosa nel frattempo è accaduto? Il governo ha detto di stanziare 8 miliardi di euro, 1 miliardo e mezzo sostanzialmente di spese correnti per fronteggiare l'emergenza in 2 anni e 6 miliardi e mezzo di spese in conto capitale per la ricostruzione vera e propria da spendere nell'arco di 5 anni. Che cosa c'è per ora? Beh, oltre al contributo di costruzione che verrà dato a chi provvederà da sé alla ricostruzione della casa, sarà a fondo perduto, 150.000 euro, promessi 80.000 euro per quello che riguarda i contributi alla riparazione e il 55% di bonus fiscale sulla ristrutturazione. Questo, diciamo, quello che dovrebbe essere anche nel decreto legge come cifre complessive. Quello che è già in vigore, stando alle ultime notizie, c'è il contributo da 200 a 400 euro a famiglia per chi si è trovato già da sé un alloggio alternativo, e quindi agli sfollati. Sospese fino al 30 novembre tutti i pagamenti e gli adempimenti fiscali per i cittadini contribuenti che abitano nelle zone terremotate, e l'anno scolastico che sarà valido anche se non si arriverà ai 200 giorni di lezione. Per quello che riguarda sempre la parte economica, invece, blocco automatico dei pagamenti delle bollette di gas ed elettricità per ora fino al 30 giugno, indennità di disoccupazione per i residenti nell'area sismica prorogata per tutti i residenti, sconto sui farmaci del 12%, contratti congelati, cioè sono stati sospesi i termini che comportano prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, anche gli adempimenti contrattuali, le scadenze relative a vaglia, cambiali e altri titoli di credito sono state sospese. È chiaro che però la parte più grossa deve arrivare proprio dal decreto legge, che è ancora al Senato, che dovrà stanziare complessivamente gli 8 miliardi a cui facevo riferimento prima. E allora sentiamo una prima testimonianza della presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, sul numero di imprese che è riuscito a riprendere l'attività. Nel frattempo saluto e ringrazio per averci aggiunto in collegamento il presidente della Confindustria Abruzzo e quindi dell'intera regione, 2000 le imprese associate, Calogero Marollo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, sentiamo la presidente di Confindustria registrare e sottolineare comunque la voglia che hanno gli abruzzesi di ripartire velocemente. Oltre il 60% delle imprese ha già ripreso l'attività. Intanto bisogna capire quanti sono i soldi realmente spendibili subito. Anche dall'incontro con gli imprenditori è uscita la necessità di fare presto e di avere la possibilità di ricostruire con tempestività, quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che è necessario che ci sia anche un maggiore coinvolgimento delle autonomie locali, quindi del Presidente della Regione che già c'è, ma anche della Provincia e del Comune, perché anche dal territorio può venire una risposta forte alla ricostruzione. Abbiamo poi condiviso con tutti che la cosa forse fondamentale per ripartire l'Aquila è proprio quella di ottenere una zona franca con forte defiscalizzazione per le imprese che già sono qui e quelle che eventualmente verranno. Questo potrebbe essere il modo migliore per permettere alle aziende di stare qui, altre aziende arrivare e quindi mantenere o creare nuovi posti di lavoro, perché questo diventa essenziale. Qui c'è la voglia proprio di ripartire molto velocemente, l'ho sentita molto forte, questo è un popolo serio, il 60% delle imprese si è già rimesso in funzione a così poco tempo e quindi non c'è voglia di sussidi o di solidarietà fine a se stessa, che certamente è importante, ma c'è soprattutto proprio la voglia di ripartire e di avere le condizioni per le imprese di stare qua e di arrivare. Così la Presidente di Confindustria, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Per quello che riguarda le richieste che arrivano non solo dagli imprenditori ma anche dagli imprenditori, ascoltiamo prima il Presidente della Confindustria Teramo, Alfiero Bernabei, che ha elencato le difficoltà anche in atto, e poi quella del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, tutte e due realizzate al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Le difficoltà per ripartire è che l'istituzione, il presidente della giunta regionale, i sindaci delle città devono dare via subito agli appalti di ricostruzione delle abitazioni crollate e soprattutto dare un aiuto alle aziende, piccole e grandi che siano, un contributo di aiuto per la crisi che abbiamo già in atto. Ci si è messo questo, può essere pure un aiuto. Il terremoto ha fatto un sacco di danni, ma può dare pure alle aziende un impulso per ripartire. Quali sono le urgenze che lei vede per le quali bisogna intervenire in tempi rapidi? Di riportare le famiglie dentro le loro abitazioni, aggiustarle, ripararle. L'aiuto soprattutto alle aziende, che ripartono, perché qua stanno quasi ferme e che naturalmente è importante per gli operai, per gli operatori. Abbiamo risolto forse la fase 1 dell'emergenza, sono 15 giorni e pensiamo alla cosa più difficile, la fase 2, che è quella di dare un tetto in breve tempo, e si sta lavorando d'intesa col governo pur con tante difficoltà, però dalla seconda notte del terremoto, mentre ancora stavamo strappando alle macerie ferite le nostre vittime, stavo pensando al futuro della città. Oggi c'è stato questo incontro importante con la Presidente di Confindustria, c'è identità di vedute, mi sento rinforzato in quello che io ho chiesto al terzo giorno, mi sembra che il governo sia d'accordo, un piano di defiscalizzazione per 10 anni, che è quello un po' che richiama 64 e l'86, per dare la possibilità di sopravvivere e ripartire sul serio. E so che l'inserimento dell'obiettivo 1 è difficile, il reinserimento, però approfitterò del G8 che potrò salutare come ospite i capi di Stato europei per far capire che questa di ricostruire la città e mantenerla viva e darle un futuro non è una sfida né degli abruzzesi né solo dell'Italia ma dell'Europa. Allora, questo appunto il sindaco dell'Aquila, prima il presidente della Confindustria Teramo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, daremo anche alcune risposte così a certi rilievi che arrivano al 349-238-6666, però con il presidente degli industriali abruzzesi, visto che appunto stiamo ricordando un mese dal terremoto. Presidente Marollo, concretamente, visto che il 60% delle imprese hanno ripreso la loro attività, adesso che cosa vi serve? Guardi, il 60% delle imprese sono già operative, però ce ne abbiamo il 35% invece che ci vorranno 2 mesi, anche un anno alcuni, e il 5% invece sono distrutte. Ma avete sul fronte del quel 40% che o è distrutto o necessiterà di tra i due mesi sì, e un anno? Stiamo aspettando intanto che la Protezione Civile ci completa le visite di sopralluogo per poter ridare l'agibilità e anche per definire quali sono i lavori per rimettere in sesto le strutture danneggiate. Ecco, l'intervento più urgente di carattere, cioè l'intervento quadro, qual è? Perché abbiamo ricordato che 8 miliardi, di cui 1,5 miliardi in spese correnti, 6 miliardi e mezzo in conto capitale, cioè uno più per le spese immediate, l'altro per la ricostruzione nei prossimi 5 anni, arriveranno appena il decreto farà il suo iter. Ma voi cosa chiedete per le imprese che non sono ancora riuscite a riprendere l'attività? Agevolazioni fiscali per un anno? Credito d'imposta? Beh, io ho chiesto la possibilità di avere una zona franca. Certo, che è un'ipotesi. Perché, qui abbiamo Zona Franca, è un'area depressa, perché diversamente chi è che viene più a investire all'Aquila con questo, con questa psicologia e questo terrorismo che oltretutto anche i media hanno fatto? Quindi in un certo momento lì bisogna trovare la maniera di rendere quel territorio più competitivo ma più attrattivo, e quindi deve avere la convenienza chi deve investire oggi all'Aquila. Per cui sostanzialmente l'ipotesi di zona franca, di, esatto, di sgravi fiscali e contributivi. Minimo, non dico 10 anni come era la cassa per il mezzogiorno, ma qui gli aquilani non è che vogliono diciamo, il contributo a pioggia, ma quello che effettivamente è necessario per poter lavorare. Perché abbiamo il problema per esempio dell'università, è un disastro, perché l'università è praticamente all'Aquila, è l'economia. Quindi, che devo dire, le prese attività in questa città, come le attività produttive, la funzionalità, gli importanti uffici pubblici culturali, quale ad esempio l'università, da molti è definita come la prima fabbrica cittadina per tutta l'economia indotta che genera, 27.000 studenti, l'Aquila vive con l'università e gli uffici pubblici. Non abbiamo più né l'università né gli uffici pubblici, perché dalla prefettura, la provincia, tutti gli uffici pubblici sono tutti disalzati. Questo è il problema. Questa è una città che vive con queste risorse. Quindi allora va affrontato immediatamente questa cosa, perché sennò diversamente all'Aquila non ci rimane più nessuno. Quindi, da come misure diciamo complessive del governo, oltre a quelle già annunciate, la zona franca e il patto di stabilità interno sospeso. È il minimo che si possa chiedere, sì, se vogliamo salvare questa città. È chiaro. Poi lei giustamente ricorda che oltre alle imprese vere e proprie, quindi il 40% di imprese che ancora non è riuscito a riprendere l'attività, c'è il tema più allargato e complessivo dell'economia del territorio, che riguarda uffici pubblici e anche l'università. 27.000 studenti in effetti non sono pochi. Poi bisognerà, ma quello è un ragionamento che faremo più avanti, anche vedere come verranno ricostruiti questi edifici, perché tutti abbiamo ben impressa nella memoria le immagini della casa dello studente dell'Aquila, per cui lì speriamo che anche la magistratura si muova e dia le colpe e le responsabilità a chi ha costruito in quel modo, ma questo è un altro capitolo, un altro tema. Grazie al presidente della Confindustria Abruzzo per averci ricordato come poi non siano solo le imprese a realizzare e a contrattare l'economia dell'Aquila e della zona colpita dal terremoto. Vi farei ascoltare però anche quello è il giudizio di un imprenditore aquilano, ossia Corrado Martignoni, che è direttore dell'azienda Filmet, e intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta spiega proprio ancora concretamente, loro fanno condensatori elettrici, e che difficoltà hanno a un mese dal sisma. Noi metallizziamo film per condensatori elettrici e packaging industriale, quindi settore alimentare. L'azienda ha avuto danni non strutturali, abbiamo avuto danni alle tramezzature, a alcuni controsoffitti che sono stati quindi prontamente rimossi, messi in sicurezza, che però appunto non hanno inficiato la parte produttiva. Ecco, la zona dell'Aquila, secondo lei, cosa necessita nell'immediato per poter avere di nuovo ossigeno? Ha bisogno sicuramente di un sostegno sia in termini di defiscalizzazione, di decontribuzione, sia alle aziende che ai dipendenti, per far rimanere dipendenti, perché si corre il rischio che molti possano emigrare altrove, e anche le aziende che molte attività possono andarsene. Questo rischio c'è anche perché moltissime aziende nell'Aquilano sono di base, di proprietà delle aziende del nord. L'ipotesi della zona franca auspicata da più parti, da ultimo dalla Presidente Marcegaglia? Sicuramente molto interessante, bisognerà vedere come intendono fare questa zona franca, con che appunto vantaggi. Sicuramente è vantaggioso, come anche quello di portare l'obiettivo 1 dell'obiettivo 87 della Comunità Europea, cioè paragonare la zona a aree più depresse tipo l'attuale Romania, Bulgaria, ecco, in modo da avere delle agevolazioni, delle incentivazioni che facciano rinascere il tessuto industriale. E anche però un po' di ottimismo non manca nel mondo di chi ha subito il terremoto e delle imprese che hanno subito i danni per quello che riguarda la parte strutturale. Ascoltiamo come ultima intervista il nostro Vincenzo Miglietta, che oggi ha seguito tutto il giorno la visita della Presidente di Confindustria Marcegaglia all'Aquila, Natale Davide, che è responsabile del call center della 3G a Sulmona e insomma, ricorda giustamente come la psicosi, al di là di tutte le rassicurazioni, sia ancora molto forte anche tra i suoi dipendenti. Noi abbiamo una sede operativa a Sulmona e devo dire che anche se il terremoto non ha colpito direttamente Sulmona, la psicosi nelle persone è palpabile. Oggi si dorme ancora nelle macchine, soprattutto lo sciame sismico non lascia abbassare la tensione, quindi è difficile, però siamo ottimisti e convinti che riusciremo a superare tutte queste difficoltà. Voi in particolare di cosa vi occupate? Noi abbiamo una società di call center, abbiamo 420 dipendenti e stiamo vivendo un momento difficile a Sulmona. Abbiamo altre due sedi, una a Campobasso e una a Chieti, però oggi siamo tutti quanti vicini alla nostra sede di Sulmona e cerchiamo di dargli forza e coraggio per superare questo momento. E la vostra attività si è mai interrotta o siete riusciti ad andare avanti? Siamo riusciti a ripartire subito, abbiamo avuto chiaramente un grosso problema di assenteismo, comprensibile, e soprattutto un forte calo di quello che è la produttività, tenendo conto che queste persone dormono in macchina, quindi la mattina difficilmente possono affrontare la giornata lavorativa con la carica che si affronta abitualmente. Però stanno reagendo nel modo più corretto, nel modo più giusto, quindi siamo ottimisti. In bocca al lupo vero e sentito a tutti gli abruzzesi, imprenditori, dipendenti e non solo. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi passiamo, cambiamo radicalmente tema. Era importante a un mese dal disastro del terremoto in Abruzzo ricordare anche quale sia lo stato dell'opera e alcune cose promesse ma ancora non realizzate, la zona franca fiscale e gli 8 miliardi, lo dico a chi polemizza un po' al 349-238-6666, abbiamo ricordato gli aiuti già in vigore, quelli solo promessi che immaginiamo arriveranno, ma per ora non sono ancora arrivati. minuti, mercati quindi, alcune commenti, alcune risposte ad alcuni sms che sono arrivati. Dunque, ma perché avete fatto sentire il ministro Tremonti senza contraddittorio? Perché da sempre, da quando esiste questo programma, i vari ministri dell'economia li facciamo ascoltare nelle loro relazioni ufficiali, istituzionali. Tremonti era all'Ecofin, ha fatto una conferenza stampa, ha risposto a alcune domande, altre risposte le daremo dopo le 18, ma non capisco quale debba essere il contraddittorio. Poi in altre occasioni ragioniamo con economisti sulla tenuta dei conti pubblici, sui numeri, su quanto realistici siano i numeri, insomma sapete che non abbiamo mai risparmiato niente a nessuno. Ancora qualcun altro dice, ma non la imbarazza, non le fa onore fare continuamente il menestrello della Fiat, a parte il fatto che non so suonare, ma io questa obiezione veramente non la capisco, non la capisco né per la Fiat, né per Finmeccanica, né per Fincantieri, che ieri si è aggiudicato un contratto da 4 miliardi per fornire gli overcraft all'esercito americano. Cioè non capisco perché uno non debba tra virgolette gioire o comunque insomma, essere contento quando un gruppo italiano, grande, piccolo, medio, in questo caso parliamo di grandi gruppi, riesce a aggiudicarsi posizioni dominanti. Varrebbe anche per l'Eni così, e l'Enel così, restiamo sulle dimensioni diciamo della Fiat. Non capisco perché uno non debba tifare, che non vuol dire deontologicamente dare informazioni sbagliate, ma tifare perché la Fiat si aggiudichi la Opel, anche perché non mi sembra che le altre offerte siano offerte diciamo con piani industriali fantastici, allora uno sarebbe partigiano, ma il tifo si può fare. Poi come nel calcio, uno tifa una squadra e poi ammette che la squadra ha giocato male, che la squadra ha meritato di perdere, che ha giocato meglio l'altra squadra, ma qual è il problema? Insomma, io tifo Italia sempre e comunque. La borsa, e poi lasciatemi chiosare, vorrei vedere se in Germania ci fosse l'operazione diciamo della Opel su Alfa Romeo, su Lancia o su Fiat, che cosa tiferebbero i tedeschi, ma figuriamoci, o i francesi o altri paesi dell'Europa. Allora, la borsa oggi ha conosciuto qualche realizzo, meno 0,5 MIB, tele anche l'S&P MIB, Parigi meno 0,4, Francoforte tra le peggiori meno 1%, Londra invece ha recuperato i rialzi di ieri, era chiusa ieri, più 2,2%, Dow Jones meno 0,1, Nasdaq meno 1%, euro sempre abbastanza forte verso quota 1,34, euro sulla sterlina a 88 pence. Titoli Mediobanca meno 4,3, Pirelli meno 3,4, Tenaris meno 2,8, Atlantia meno 1,8 come Telecom e Unipol e Prismian, ma anche le CIR. Eni perde l'1,7, il Monte dei Paschi 1,5% di calo, l'1,4 lo perdono Fondiaria ed Enel, l'1,2 Intesa e Italcementi. Chi ha guadagnato oggi? La Popolare di Milano più 4,4 si porta a 4,70 euro per azione, Luxottica più 4,2, Le Campari più 4%, Mondadori più 3,4, Banco Popolare più 2,90, Parmalat più 2,5, Autogrill più 1,7, Unicredit più 1,3 e Buzzi Unice in più 1%. Chiudiamo con Snam Rete Gas che guadagna lo 0,80%. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, bene le banche, cosa sono stati i conti dell'UBS che per carità sempre in rosso, ma un rosso molto molto inferiore ai 9 miliardi dell'ultimo trimestre 2008, il rosso questa volta, cioè la perdita di UBS è stata intorno al 1,3 miliardi di euro. Sì, infatti UBS sul finale ha guadagnato l'1,59%, ma nel durante della seduta ha fatto meglio. Inoltre sono andate benissimo le banche anche in Inghilterra e un po' in tutta Europa, tant'è che il sottoindice Stoxx 600 europeo ha guadagnato il 3,6% vantando la performance migliore. Si sono riaccesi un po' i riflettori dopo il fatto che, come hai rammentato tu, UBS ha pubblicato conti meno peggio di quanto ci si aspettasse. Poi c'è molta attesa per la pubblicazione dell'esito degli stress test sulle banche americane, ma come ha già detto oggi in congresso lo stesso Ben Bernanke, il presidente della Fed, nel caso in cui ci fossero banche americane che devono comunque ricapitalizzarsi, molto probabilmente il grosso della liquidità lo troveranno sul mercato, cioè ricorreranno al mercato, visto che nell'ultimo periodo appunto le borse hanno recuperato terreno, e quindi questo ha dato conforto un po' anche a tutto il listino. È vero che Bernanke ha parlato nel pomeriggio, ma c'erano già degli articoli che ipotizzavano questo scenario sulla stampa americana. Ancora, mentre arrivano altri messaggi al 349-238-6666, va bene, adesso risponderemo anche a quelli. Molto bene le CIR. Oggi realizzi sulle CIR, però insomma, resta un rialzo intorno ai 15 punti percentuali, ci si aspettava qualche realizzo in più, invece devo dire che tutto sommato poca cosa, meno 1,7 e chiude a 1,12 euro. Sì, guarda, detto bene all'inizio, molto bene CIR, nel senso che almeno fino al primo pomeriggio sì, le CIR segnavano una delle migliori performance sul listino. E, diciamo, la cosa è che è da giovedì scorso che le CIR hanno inanellato un rialzo dietro l'altro, e sui massimi di oggi il rialzo da giovedì scorso era attorno al 25% e di Cofide intorno al 18-20%. Sono piaciuti i conti trimestrali, poi è vero anche che CIR è entrata nell'indice principale. E ha fatto parlare di sé, evidentemente molti fondi erano scarichi nell'ultimo periodo, quindi c'è chi ha acquistato a man bassa. Ancora, Luxottica oggi in evidenza, sì che non può essere giustificato dal rapporto di cambio, che è tutto sommato fermo, Luxottica, ma non solo, più 4,2%, Campari più 4%. Sì, Luxottica si avvicina il momento appunto della pubblicazione della trimestrale in calendario il 7 maggio, ovvero tra due giorni, e quindi questo ha riacceso un po' i riflettori sulla società. Poi molti titoli appunto si sono mossi, cioè rompendo certe soglie tecniche, la stessa Luxottica ha accelerato dopo che si è avvicinata e quindi ha rotto la soglia dei 15 euro. Oggi infatti c'è molto nervosismo, gli stessi trader alla fine hanno posto attenzione all'analisi tecnica più che a notizie fondamentali. Allora, tra i migliori e i peggiori della seduta, il migliore Cell Therapeutics, di nuovo più 40,7, Data Service più 22, e poi le Crespi più 13, Telecom Media, le Risparmio, ma comunque anche le ordinarie più 10%, buono giudizio del mercato, ITWay meno 6,9, peggiore e poi Mediobanca tra le peggiori, appunto, meno 4,3%. In una battuta, Mediobanca? Motivi particolari non ce ne sono. Sono scattate evidentemente delle prese di beneficio che poi sono andate a colpire un titolo piuttosto che l'altro. È vero anche, va tenuto conto, che oggi è la prima seduta di realizzi dopo 8 sedute consecutive di rialzo, quindi anche secondo i trader tutto sommato era da mettere in conto una frenata che per adesso è comunque contenuta e fisiologica, come dicono gli stessi esperti. Grazie onore Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, non vi dico, servo della Fiat, lei non è mai salito su una Fiat, a parte il fatto che non è vero, ve lo posso assicurare, le ho avute e ci sono salito più volte, ma il problema è un altro. Cioè, abbiamo commentato, e poi adesso lascio la linea al GR, per anni una Fiat che era sull'orlo del baratro, in cui sembrava dovesse essere comprata da General Motors, in cui le banche l'hanno salvata con un prestito ponte, in cui nessuno scommetteva più una lira, con un danno anche per gli occupati. Ma insomma, se la sezione powertrain produce dei motori che vanno bene e che piacciono, o diciamo che anche Barack Obama è un servo della Fiat, possiamo anche dire, oppure ogni tanto cerchiamo anche di non essere sempre con l'acrimonia. Siamo tutti d'accordo che nel passato la Fiat abbia avuto problemi di gestione enormi, fino a qualche anno fa. Non ci piove. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, al di là della vicenda Fiat, ripeto, Marchionne, dopo essere atterrato ieri, è tornato negli Stati Uniti, oggi Washington, New York, Detroit, le prossime tappe. Sul fronte tedesco non si segnalano novità, se non appunto l'intervista che già ricordavamo dello stesso Marchionne al tabloid Bild, in cui diceva attenzione, non abbiamo nessun interesse nel chiudere gli impianti, anzi nel caso di acquisizione della Opel manterremo aperti tutti e quattro gli impianti produttivi in Germania e saremo in grado di ripagare le garanzie ieri chieste nel caso appunto di successo dell'operazione allo Stato tedesco, tra i 5 e 7 miliardi saremo in grado di pagarle in 3 anni. È arrivata però un'agenzia poco fa, la leggo insieme a voi: il piano della Fiat di creare una nuova società con General Motors Europe e Chrysler potrebbe costare 10.000 posti di lavoro in Europa, lo ha detto all'agenzia di stampa Reuters il presidente dei sindacati del consiglio di fabbrica della Opel, Klaus Franz. Ora, è una stima molto pesante, sappiamo tutti che IG Metall e il sindacato dei lavoratori della Opel sono fortemente contrari all'ipotesi Fiat, temono infatti che questo porti a un ridimensionamento della Opel. Franz ha riferito che durante un incontro con Marchionne il manager del Lingotto avrebbe previsto la chiusura dell'impianto tedesco di Kaiserslautern e di altri siti produttivi Fiat Opel in Gran Bretagna. Staremo a vedere, anche perché il Financial Times dice che ci sono altri gruppi ancora interessati. Adesso vorrei invece tornare a dare alcuni aggiornamenti per chi si fosse appena messo in collegamento sulla giornata e poi passare al rapporto Ecomafie, ma non solo, anche la Mafia S.p.A. Avete sentito dal nostro GR, 300 milioni di euro sequestrati alla mafia in Sicilia, a Palermo per la precisione, ma insomma i timori che paradossalmente la mafia possa uscire rafforzata dalla crisi finanziaria sono tanti e molto forti. Vertice Ecofin a Bruxelles, ma anche e soprattutto l'audizione del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, al congresso. Il numero uno della Banca Centrale Americana ha detto in sostanza di essere soddisfatto complessivamente dai risultati dei test, gli stress test applicati a 19 banche americane. Ha ammesso però che una ricaduta della crisi finanziaria potrebbe minacciare la ripresa dell'economia americana, ma ha anche ricordato che il mercato immobiliare americano si sta stabilizzando e che la recessione americana sta rallentando quanto a velocità, quindi una buona notizia, anche se è previsto un aumento della disoccupazione. We continue to expect economic activity to bottom out. Ci attendiamo ancora una flessione dell'attività economica che poi risalirà verso fine anno. Possiamo affermare questo in base al fatto che il mercato immobiliare si sta stabilizzando. Le nostre previsioni poggiano sull'assunto che il sistema finanziario torni gradualmente alla normalità. Una ricaduta della crisi finanziaria potrebbe infatti minacciare e fermare la ripresa dell'economia. Anche quando la ripresa sarà in atto, il tasso di crescita resterà al di sotto del potenziale per un certo lasso di tempo. Ci aspettiamo che la ripresa prenderà ritmo solo gradualmente e che la contrazione dell'economia non terminerà in tempi rapidi. In particolare, le imprese resteranno molto caute nel tornare ad assumere e in questo modo il livello di disoccupazione resterà ancora alto per un certo tempo. In tale contesto, l'inflazione dovrebbe restare a un livello basso, grazie anche alla discesa dei prezzi del petrolio e delle materie prime. Una ripresa economica duratura dipende moltissimo dalla stabilità del sistema finanziario. Nelle ultime settimane sono migliorate le condizioni in diversi mercati finanziari, riflettendo in parte gli incoraggianti dati economici. Tuttavia, i mercati e le istituzioni finanziarie rimangono soggetti a un alto livello di stress. Così il numero uno della Federal Reserve. Per quello che riguarda invece il vertice Ecofin, già abbiamo sentito il ministro Monti ricordare come i dati diffusi ieri da Bruxelles siano molto vicini a quelli diffusi dal governo nella relazione del fine settimana scorso, e quindi calo del 4,4, il governo dice 4,2% del PIL italiano quest'anno, crescita dello 0,1 secondo Bruxelles, dello 0,3 secondo il governo italiano l'anno prossimo. Il ministro Tremonti si è anche occupato dei piani sulla lotta all'evasione fiscale e ai paradisi fiscali. Allora, un primo giudizio positivo sul piano Obama e conferma anche che l'Italia sta studiando delle misure, dall'ipotesi di sanzioni più forti per chi evade il fisco portando capitali all'estero a quella di una lista nera italiana dei paradisi fiscali. Dal G20 in poi si è aperto nel mondo il cantiere. Non c'è ancora in Europa niente di definito. Pur vero che tutti si stanno in un qualche modo muovendo. Nel progetto di budget inglese si parla di azione contro i paradisi fiscali, c'è un paragrafo. In Francia sono iniziate attività tentative di gestione dei rapporti con soggetti che hanno portato fuori i soldi. La Germania manifesta particolare attenzione al cosiddetto scandalo del Liechtenstein. Anche noi stiamo lavorando. Una delle norme a cui stavamo lavorando dire, primo, se il capitale è in un paradiso fiscale, si presume, salva prova contraria, ma si presume che sia il prodotto di evasione fiscale. Salva prova contraria, e quindi se tu hai quel capitale in un paradiso fiscale perché lo hai ereditato da tuo nonno, hai, come dire, la denuncia di successione che certifica. Oppure se hai fatto un movimento registrato in base alla legge di controllo sui movimenti valutari. Ma se non c'è questo, non riesci a far valere la prova contraria, si presuppone che il reddito messo in un paradiso fiscale sia il prodotto di evasione fiscale. Secondo, abbiamo previsto un aggravante speciale causa di incremento della punibilità dovuta alle modalità dell'operazione. Se tu il prodotto dell'evasione lo tieni in Italia, hai la sanzione ordinaria, ma se lo metti, stavo per dire un paese, ma se lo metti da un'altra parte che viene qualificata paradiso fiscale, è giusto che ci sia una specifica di aggravante nella logica della modalità del reato, che è di occultamento del prodotto reato, che è giustamente un aggravante. Queste quindi le norme, secondo il ministro Tremonti, che sta mettendo a punto il governo italiano in tema di paradisi fiscali. ...25.776 i reati di carattere ambientale accertati, 71 al giorno, uno ogni 3 ore, la metà dei quali si è consumato in 4 regioni, quelle a tradizionale presenza della criminalità organizzata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Il resto si spalma, per così dire, in maniera democratica su tutto il territorio nazionale. L'ecomafia, quindi la parte dell'attività criminale legata all'ambiente, è un business, un giro d'affari che vale oltre 20 miliardi di euro, come ci racconta questa scheda. Nella prossima ora verranno commessi nel nostro paese almeno 3 reati ambientali. Questa, infatti, è l'impressionante frequenza con cui si susseguono gli sfregi contro il patrimonio artistico, ambientale e urbanistico. Nel 2008 gli ecoreati sono stati complessivamente quasi 26.000, vale a dire 71 al giorno e appunto 3 ogni ora. Purtroppo questo è uno dei pochissimi settori immuni dalla crisi economica, tanto che nel 2008 il giro d'affari ha raggiunto i 20 miliardi e 500 milioni di euro. Una fetta consistente di questi introiti arriva dal traffico di rifiuti pericolosi. Lo scorso anno una montagna di rifiuti speciali, alta quasi quanto l'Etna, è sparita nel nulla. 3.100 metri di materiali pericolosi, nascosti chissà dove, senza aver subito i necessari trattamenti, con i responsabili dello scempio che hanno intascato 7 miliardi di euro, quasi 3 miliardi in più rispetto all'anno prima. In Sicilia, Campania, Calabria e Puglia si concentra circa la metà di tutti i reati ambientali, ma il resto del paese non deve sentirsi al sicuro. In particolare, il rapporto di Legambiente segnala l'ingresso di Piemonte e Lombardia tra le regioni più coinvolte dai traffici illeciti e dall'interramento senza controlli di rifiuti industriali. Altro tasto dolente, gli abusi edilizi, tornati a crescere dopo anni di costante flessione e che nel 2008 si sono tradotti nella costruzione di 28.000 unità abitative non in regola. Da non sottovalutare, infine, il business delle cosiddette zoomafie, che gestiscono combattimenti tra cani, corse clandestine di cavalli e compravendite di animali di razza e specie proibite. Tutte attività illegali che fruttano ogni anno ben 3 miliardi di euro. Unica nota positiva in un quadro per il resto sconfortante sono i risultati ottenuti dalle forze dell'ordine. Nel 2008 gli arresti sono cresciuti del 13%, raggiungendo quota 221, mentre i sequestri sono stati 9.676, il 6% in più dell'anno prima. Insomma, impressionante pensare che ogni anno la mafia, camorra, 'ndrangheta, mafia, gestisce scorie industriali, la Rifiuti S.p.A., che raggiungono la vetta di 3.100 metri, quasi quanto l'Etna. E poi c'è anche qualche, non è che le gestiscono da solo, sono scorie industriali che qualche imprenditore va lì a dare alla mafia, e complimenti, come tutti avete visto o letto nel film o nel libro Gomorra. C'è questo aspetto, sentiamo il presidente Legambiente Vittorio Cogliati Dezza indicare gli elementi di maggiore preoccupazione anche per l'anno in corso, al microfono la nostra Sabrina Valletta. Il dato più preoccupante probabilmente è la crescita continua del fatturato delle ecomafie. Ormai abbiamo superato i 20 miliardi, che significa in perdita netta solo per le casse dello Stato sono calcolabili circa 3 miliardi in mancati introiti. Il secondo elemento preoccupante è un'invasione molto evidente nelle aree del nord del paese, non solo perché sono le industrie del nord che riciclano in modo illegale i rifiuti, questo era anche prima ovviamente, ma anche perché è nel nord che si comincia a diffondere la presenza negli appalti, la presenza dell'abusivismo, le altre forme di illegalità, per esempio anche nel settore dell'agricoltura e del racket degli animali. E il terzo fattore, diciamo, di preoccupazione è dato dalla capacità che hanno le ecomafie di cogliere il business, di capire dove possono andare, diciamo, gli investimenti per la ripulire i capitali, e da questo punto di vista per esempio il settore delle energie rinnovabili è uno di quelli a massimo rischio. Questo solo per quello che riguarda le ecomafie. Se poi allarghiamo al bilancio della mafia S.p.A. siamo a 130 miliardi l'anno di giro d'affari stimato, con l'usura in crescita, 180.000 vittime dell'usura in Italia, ma chiaramente il traffico di droga resta la voce principale, il core business, potremmo dire, della mafia, 59 miliardi. E allora la domanda è semplice: è possibile che in un periodo di crisi finanziaria in cui le banche hanno stretto, generalmente non tutte, messo i rubinetti alle imprese, in cui la liquidità scarseggiava, il soggetto che non ha problemi di liquidità e che anzi è disposto a investire 100 per avere 95 di ritorno, pur di riciclare, di ripulire i soldi, ne tragga un vantaggio, e se sì, di quale genere? La giro la domanda all'economista Carlo Trigilia, che insegna sociologia economica all'Università di Firenze, editorialista del Sole 24 Ore anche sui temi della criminalità. Buonasera professore. Buonasera a voi. Se sì, insomma, prego. Questi dati sono impressionanti. Sono impressionanti, direi, non solo per la portata economica, 20 miliardi, ma sono impressionanti perché i reati dell'ecomafia sono abbastanza visibili, cioè non è così facile nascondere agli occhi di altri soggetti. Quindi questo fa pensare che oltre all'enorme massa finanziaria ci sia un capitale sociale della mafia, per così dire, cioè delle reti di connivenza che sono purtroppo nel nostro paese troppo diffuse, troppo spesse. Secondo lei è pensabile che la mafia in generale, le mafie, ne approfitti della crisi finanziaria avendo liquidità, e quindi da un lato fornendo liquidità? Insomma, il private equity è scomparso, le banche hanno avuto i problemi che sappiamo, gli imprenditori hanno avuto difficoltà, e ne approfitti diventando essa stessa banca d'affari o anche acquistando interi blocchi di azienda, parti produttive del paese? Purtroppo è possibile, cioè è un'ipotesi realistica, esistono già anche alcune indicazioni dal punto di vista investigativo. E naturalmente in una situazione di crisi, di difficoltà, un soggetto che ha grossa liquidità può usare questo strumento di acquisizione, di compartecipazione o addirittura di intere imprese che sono in difficoltà, permettendosi anche di sbossare cifre consistenti nel breve periodo, pur di fare un investimento che ha due finalità, non soltanto quella di consentire il riciclaggio attraverso imprese meno sospettabili, ma anche quella di allargare le possibilità di investimento anche ad imprese che formalmente si muovono nel mercato legale. Sempre ragionando di mafia, come fa lei e come hanno fatto anche altri studiosi italiani, come azienda criminale, impresa criminale, è pensabile che la mafia abbia un vantaggio, oltre che nell'avere soldi che vuole ripulire, quindi per questo si diceva uno investe 100, può avere anche un ritorno a 95 perché tanto li ha ripuliti, ma è pensabile che la mafia riesca paradossalmente ad avere anche una visione di medio-lungo termine rispetto a i soggetti legali, in questo caso, che prestano i soldi ma vogliono poi avere un ritorno abbastanza breve? Paradossalmente credo che sia proprio così, cioè l'enorme massa di liquidità di cui dispone questo soggetto, questi soggetti criminali, consentono una visione più pianificata a medio e lungo termine, come delle banche di investimento, che in questo momento quelle vere sono in difficoltà, e la mafia può consentirsi una pianificazione strategica, per così dire, dei suoi investimenti. Tra l'altro, quello che sentivamo prima a proposito della penetrazione nelle regioni del nord attraverso i reati di ecomafia è un campanello d'allarme molto pericoloso. Se è vero che metà di questi reati riguardano ormai il nord del paese, questo può essere un pericoloso veicolo di infezione dell'economia più sana. E poi, senza considerare il danno che fanno alle quattro regioni del sud, ma non solo a quelle, e i reati dell'ecomafia in questo caso, è inutile poi pensare a uno sviluppo turistico del sud se abbiamo intere parti deturpate proprio dai reati di carattere ecomafioso. La buona notizia di oggi, ve l'hanno già data i nostri GR, cioè che, come ha annunciato il ministro Maroni, è stata tolta quella norma che era passata in commissione che di fatto eliminava la denuncia anti-racket, per cui è stata ripristinata. Questa è una buona notizia, e con questo vorrei chiudere nel ringraziare il professor Trigilia e nell'augurare a voi un augurio di buona serata. Noi domani ci risentiamo come sempre dalle 17 in poi.